Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che inizia ora alle ore 20 e andrà avanti fino alle 21.30. Siamo qui in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine e andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, iniziamo in modo perfetto, ovvero con già degli intoppi tecnici, comunque ovviamente ce la caveremo a costo di non mandare la sigla, ma noi ora andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla di questa trasmissione che è Retribution dei Behind Enemy Lines. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione e e andremo avanti con questa trasmissione fino alle 21.30. Siamo in diretta come tutti i giovedì. E ora invece di proporvi così un nuovo, insomma, una delle solite uscite che spesso, anzi al 99 mettiamo sempre dell'ambito punk hardcore, anarcho punk, comunque degli ultimi, diciamo, 40 anni se non di più, andiamo invece, rimaniamo all'ascolto sempre di questa band statunitense, ovvero i Behind Enemy Lines, che insomma, a parte la sigla, non li abbiamo mai passati, insomma, con altri brani, difficilmente. Sono ben tre gli album che hanno fatto questa band. È una band che purtroppo non esiste, è una band molto politicizzata. Loro sono statunitensi di Pittsburgh, che è nello stato della... non ci siamo preparati, inutile, abbiamo deciso a questo ultimo momento di mettere comunque questa band. E come dicevo, il loro album è datato, questo era il loro ultimo, datato 2006, che si intitolava One Nation Under the Iron Fist of God. Loro sono i Behind Enemy Lines e ci ascoltiamo un altro brano. We might not know facts, but brutal things to feel our economy, let's turn well blood. the condemned, we now advocate the perpetrate. Labeled a terrorist, but how are we different when we reopen the rape rooms under American management? Victimized, demoralized, brutalized, dehumanized. Questa sera siamo davvero un po' presi dagli inghippi tecnici e cioè, si vede qualcuno che ci sta facendo i malefici e noi gli facciamo un maleficio, specialmente quelli che lavorano che ci stanno ascoltando per esigenze di servizio, d'ufficio, ecco. Invece un saluto a tutte e a tutti, e specialmente a chi è lontano, ma anche a, insomma, chi è lontano fuori da, dal Friuli, fuori dalla provincia di Udine, da dove noi trasmettiamo anche stasera, giovedì 17 marzo, sono le 20:25, andiamo in diretta da Radio Onde Furlane. E questa è Zardins Magnetics. Noi salutiamo, come detto, tutte e tutti chi ci ascolta in diretta, soprattutto anche chi ci ascolta da lontano, in particolar modo qualcuno che forse è già diciamo in Spagna, in particolare, che ci ascolta, e gli mandiamo un abbraccio. Questa sera noi parleremo di tre cose. Un'iniziativa che si svolgerà, promossa dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di, del Friuli e di Trieste. Saranno due diciamo incontri, interventi pubblici. Sabato, quindi sarà il 19 marzo alle ore 15:30 in Campo San Giacomo Trieste. Invece, per chi ci ascolta dal Friuli, l'appuntamento è alle 17:30 qui a, allo spazio autogestito di Via De Rubeis 43 a Udine, nella capitale. E sarà con noi Nicoletta Poidimani per approfondire le questioni della militarizzazione della sanità, delle questioni sanitarie e del corpo, come oggi, ovvero come in questi anni con la pandemia da Covid, così anche ai tempi del disastro di Seveso nel luglio 1976, quando un reattore chimico diciamo esplose spargendo nell'atmosfera di una quantità considerevole di veleno, ovvero di diossina, e insomma quello che le autorità fecero, oltre a nascondere nell'immediato, fu esattamente mandare l'esercito e gestire le cose in maniera irrazionale, come da par loro. Di questo appunto parleremo approfonditamente con Nicoletta. E per questa sera, per la presentazione, cogliamo così, prendiamo pretesto questa iniziativa, associando il sonoro di una conferenza che si è tenuta a Bussoleno in Valle di Susa qualche settimana fa. E la relatrice si chiama Stefania Consigliere. Probabilmente avevamo letto già qualche cosa di suo nelle puntate precedenti. Mandiamo due piccoli inserti, cioè due piccoli spezzoni di questa lunga conferenza, che trovate diciamo sul web i riferimenti, poi li metteremo nel nostro blog. E io direi che si può far partire lo spezzone. Allora, la nostra medicina nasce nel 1600 sul tavolo anatomico, okay? Quindi nasce con la dissezione di cadaveri. Qualsiasi testo di storia della medicina vi direbbe che c'erano Ippocrate e Galeno in Grecia e nella Roma imperiale, ma poi sostanzialmente quella roba lì viene esaurita rapidamente e si comincia effettivamente la storia della medicina con la dissezione di cadaveri. Ora, dissezione dei cadaveri che lì per lì è una vera rivoluzione, nel senso che fino al 1600 i cadaveri non si possono toccare, vanno sepolti senza violarli. Tant'è vero che Leonardo, nella leggenda, per studiare l'anatomia deve disseppellire di nascosto i cadaveri e aprire per vedere che cosa c'è dentro, ma il gesto è blasfemo, ok? È una violazione di tabù. Dal 600 in avanti, guarda caso col 600 comincia la modernità e ci sono i prodromi del capitalismo, le enclosures di Marx, eccetera. Col 600 quel gesto non è più tabù, okay? L'umano viene percepito come una macchina e quindi i cadaveri sono sezionabili, perché nel frattempo l'anima si è già staccata e sta già facendo la sua storia. Quindi c'è la grande separazione di corpo e anima nel 600, pensata a Cartesio. E quindi finalmente coloro che studiano la fisiologia e l'anatomia possono aprire i corpi e vedere come sono fatti. Ma quell'origine della medicina non è insignificante, non è priva di una serie di conseguenze che ci portiamo dietro ancora adesso. Perché pensate che cosa vuol dire sezionare, da parte di un medico, sezionare un corpo morto. Significa che quando tirate fuori gli organi, il vostro scopo come terapeuta è quello di capire dov'è la lesione organica che ha causato l'evento avverso per eccellenza che è la morte. Ve lo dico in altri termini. La nostra medicina parte dalla situazione peggiore possibile, cioè quella di un corpo che è stato abbastanza malato ad essere morto, e risale a ritroso verso le cause della malattia. A noi sembra ovvio, ok? E ci sembra ovvio perché siamo abituati da quando siamo nati alla assoluta rilevanza dell'anatomopatologo nella facoltà di medicina. L'anatomopatologo è il re dei medici, okay? Quindi colui che fa la sezione del cadavere davanti alla platea degli studenti, colui che è incaricato di capire come qualcuno è morto, okay, tra l'altro con tutta la delicatezza, no, legale, etica, eccetera, di una roba del genere, è, come dire, è il re dei medici. Ma dal punto di vista terapeutico, che si parta dalla morte, okay, quindi dallo stato di massima malattia possibile in cui il corpo non resiste, invece che dallo stato di salute, non è per niente scontato. La medicina tradizionale cinese, per fare un confronto, non parte dal corpo morto, parte dal corpo vivo. Studia il corpo in salute, ok? Allora, immaginatevi che tipo di eredità, ok, e anche che tipo di trascinamento concettuale ha il fatto che la biomedicina parte invece dall'evento avverso per eccellenza e risale, no? Quindi risale allo stato un attimo prima della morte. Che cosa si è rotto un attimo prima della morte? Quindi che cosa devo vedere io sugli organi per capire che cosa si è guastato? E poi un attimo ancora prima, quando l'organo ha cominciato ad andare verso la direzione che poi avrebbe ucciso il mio paziente, che cosa si vedeva? Che cos'è che non ha funzionato? Ora, questo significa, in soldoni, che proprio per la sua origine, ma proprio per questa discendenza familiare, la biomedicina è particolarmente efficace, e mi verrebbe da dire che forse è la più efficace di tutte, quando la situazione è gravissima. Allora, se la situazione è tragica, ok, la biomedicina è particolarmente potente. Nessun altro rimuove i tumori come li rimuoviamo noi, ok? Anche perché nessun altro ha quei mezzi tecnici, semplicemente di igienizzazione, no? Visto che fatti in una certa maniera, gli antibiotici, la possibilità di circolazione extracorporea. Allora, tutto questo apparato qui enorme e, se vogliamo, anche molto bello, molto interessante, è il nostro e serve a rendere particolarmente efficace il nostro sistema terapeutico in tutte le situazioni gravi. Allora, se la situazione, anche semplicemente delle operazioni dopo incidenti, no? La biomedicina è efficiente, ha un'efficacia materiale potentissima, ok? You wanna see badass, motherfucker? I'll show you badass! Oh, Caccia ha, appunto sempre per via di questa origine, ha il suo punto massimo, cioè il meglio del funzionamento della nostra medicina è quando il soggetto non c'è. Quindi quando io mi levo di torno il soggetto e posso finalmente lavorare sul corpo macchina. No, traduco, la nostra medicina è al massimo possibile efficiente quando opera sul tavolo operatorio e il paziente è sedato. Quindi tu non sei lì a lagnarti, non sei lì a dire ma io veramente, ok, non ci sei perché l'anestesista ti sta tenendo in un altro ordine di realtà, ci sei col corpo fisico, sul corpo fisico la nostra medicina è efficacissima. Quando il paziente comincia a svegliarsi e avere delle opinioni e aver bisogno di relazioni, la nostra medicina è particolarmente carente, ok? Nel senso che la presa in carico del paziente, di cui si discute ma da almeno 150 anni, okay, qual è il modo migliore di presa in carico del paziente, sostanzialmente per il medico che funziona in termini anatomopatologici non è un problema. Cioè operare lei o operare lui è la stessa roba, sono dei corpi. Io li sedo, apro e faccio quello che devo fare. Quando il paziente è in piedi, orientato, magari anche in mezzo ad una comunità che ha certi desideri, eccetera, eccetera, qui la nostra medicina ha meno da dire, no? È più debole. Allora, parzializzazione del corpo, nel senso che il corpo è separato in tanti distretti, tendenzialmente poco comunicanti fra loro, focus massimo sull'evento avverso, quindi la nostra medicina parte dalla morte e cerca di risalire, no? E se la cava sempre meglio man mano che avvicina la morte, sempre peggio man mano che allontana dalla morte, parentesi, al punto tale che noi non facciamo prevenzione, mai, ok? Gli screening, no, a vocabolario, non sono prevenzione, è diagnosi precoce, non è prevenzione. Cioè lo screening serve perché io becco la malattia per tempo, non perché impedisco l'arrivo della malattia. Conoscenza, quindi efficacia materiale particolarmente forte, no? Di tipo appunto l'antibiotico come farmaco per eccellenza, focus sulla morte, parcializzazione del corpo, interpretazione del corpo ancora adesso sostanzialmente un po' come una macchina in cui posso cambiare i pezzi. E poi, soprattutto, che sarà poi il termine del ragionamento che arriva dopo, l'idea che la salute sia qualcosa di interno al soggetto. Allora, la salute è mia, sta dentro di me, cioè sta nel fatto che per qualche ragione funziona bene, okay, i miei organi non hanno niente da dire, d'accordo? E fino ad arrivare poi nel Novecento a un'idea della salute come capitale individuale, cioè la mia salute è un pezzo della mia ricchezza, il fatto che il mio corpo funzioni come una macchina deve funzionare fa parte del mio capitale, ok? Cioè se vado da un datore di lavoro posso anche dire che fa ridere, ma il sistema assicurativo degli Stati Uniti non è mica tanto diverso, eh? Quando il datore di lavoro deve pagare l'assicurazione sanitaria per i dipendenti, posso andare da un datore di lavoro e dire io mai ho avuto niente, familiarità con tumori, niente, moriamo tutti a 120 anni in piena salute. We'll be right back. E stiamo ascoltando in sottofondo questa band svedese, End of All, la fine di tutto, il nome di questa band. E tra l'altro volevo ricordare che ormai siamo arrivati ad un alto livello, perché abbiamo ripristinato tutto il guaio precedente a inizio trasmissione. Ovviamente queste cose non sono mai accadute, cioè di ripristinare tutto nella stessa diciamo puntata di programma. Vabbè, dai, comunque questa band svedese, come ho detto, è anche questa del primo decennio di inizi anni 2000, e questo era il loro album d'esordio. Ne hanno fatto solamente un altro successivo negli anni successivi, nel 2009. Questo, come ho detto, 2007, che si intitola Same Shit But Different, stessa merda ma differente. Comunque, End of All dalla Svezia. Quindi volevo solo ribadire che l'iniziativa di cui vi ho anticipato insomma lo svolgimento, insomma, che ci sarà l'appuntamento sabato e domenica, è un incontro con Nicoletta Poidimani, e insomma è intitolato Nocività, difesa ipocrita della vita e militarizzazione della salute, dall'ICMESA di Seveso all'attuale gestione della pandemia. E si terrà appunto sabato 19 marzo a Trieste in Campo San Giacomo a partire dalle 15, domenica 20 marzo a Udine, spazio autogestito di Via De Rubeis 43, a partire dalle 17. Bene, e poi volevo aggiungere ancora un'ultima cosa, che l'audio dell'antropologa Stefania Consigliere che abbiamo ascoltato lo reperite sul blog bachecavalsusa.noblogs.org, dove tra l'altro avete a disposizione anche un altro audio di una conferenza sempre di Nicoletta Poidimani, e così potete avere un anticipo, un'idea di quello che ascolteremo qui domenica a Udine. Voltiamo pagina per ricordare, per mantenere viva la memoria sul fatto che in questi giorni, nel 2020, si scoppiavano delle rivolte nei carceri italiani e lo Stato rispondeva con una strage di 13, dove cadevano morti, diciamo cadevano senza vita 13 detenuti e diversi altri venivano, insomma, ricevevano il trattamento da macelleria messicana. E per questo, insomma, per ricordare, per tenere viva la memoria su questo strage, vi trasmetteremo lasciami, se si può mettere un po' di musica basso volume sotto. Dicevo, è rimasta, trasmetteremo due piccoli spezzoni da un documentario realizzato da Rai News, che è stato appunto le cui autrici sono tre giornaliste: Maria Elena Scandaliato, Giulia Bondi e Raffaella Cosentino. E si intitola Anatomia di una rivolta, inchiesta sugli 8 morti nel carcere di Modena. Contestualmente a questo audio, io poi vorrei anche leggervi dei pezzi tratti da un articolo che è uscito invece su, diciamo, sempre parla prendendo spunto da dai contenuti, insomma, evidenziati in questo importante, insomma, contributo televisivo, ma anche da altre cose. E direi che quando vuoi puoi mandare il nostro sonoro. La sera dell'8 marzo 2020, dal carcere di Modena, da ore teatro di una violenta rivolta, cominciano i trasferimenti di detenuti verso altri penitenziari. A terra si contano già le prime 3 vittime, diagnosi overdose da metadone. C'è un problema da risolvere: evacuare centinaia di persone. A bordo dei primi pullman viaggiano i 68, il 9 marzo verranno trasferiti altri 251, tra il 12 e il 15 marzo 88. Oltre ai decessi c'è una struttura penitenziaria che forse neppure un uragano avrebbe praticamente determinato cause così devastanti. Alla fine dei 546 reclusi nella casa circondariale Sant'Anna ne rimarranno 114. Il trasferimento dei detenuti non è un viaggio come un altro, servirebbe il nulla osta sanitario che attesti che il detenuto può sopportare uno spostamento, ma a Modena, almeno nelle prime ore, questa documentazione non c'è. Sono i magistrati nella richiesta di archiviazione a certificarlo. I detenuti in overdose sono decine, la situazione, scrivono, è da campo di guerra. Anche in assenza di documenti, le PM danno per certo che tutti i detenuti siano stati visitati prima di partire. C'era una parte di persone che passavano direttamente dallo stanzone ai trasferimenti senza che voi le poteste visitare. Ma no, se non stavano male, sicuramente noi non le visitavamo. Alle 2 di mattina del 9 marzo parte da Modena un pullman diretto a Verona e Trento. Agli atti dell'inchiesta non c'è l'elenco di chi ha viaggiato, ma noi abbiamo rintracciato un'ex detenuta. Prima del trasferimento lei è stata visitata a Modena? No, assolutamente. No, abbiamo fatto una prima tappa a Verona, continuavano a intimare di scendere, dicevano un nome, adesso non ricordo. Qualcuno con la mano, credo l'abbia preso per mano per dire vieni giù. Questa persona non era in vita perché è rotolato giù, si è accasciato su se stesso, l'hanno sdraiato usando i piedi e non le mani. Quell'uomo si chiama Ghazi Hadidi, ha 36 anni, è tunisino. Si vedeva chiaramente che era già morto o comunque era livido. Al mio arrivo il paziente era seduto ancora sul mezzo, scrive il medico del carcere di Verona e prosegue. Era in coma a livello 3 della scala di Glasgow, vale a dire irreversibile, alle 5:10 del 9 marzo, constata il decesso. L'indomani il medico legale esamina il cadavere. Gli esami tossicologici risulteranno positivi a metadone e altri farmaci, in concentrazioni idonee a cagionare il decesso. Non ci sono segni esterni di violenza, aveva scritto il primo soccorritore. Per il medico legale invece in bocca c'è sangue e mancano due denti. In più punti il corpo ha lesioni da ricondurre ad azione di un corpo contundente. Eppure all'obitorio di Verona né il cadavere né la testa vengono aperti. Tu hai preso tutto il tuo tempo e dopo ce l'hai consegnato. Senza l'autopsia, perché? Che l'autopsia ci volesse lo sostiene l'anatomopatologa Cristina Cattaneo. Adidi aveva subito un trauma al volto, scrive nella sua consulenza per il garante dei detenuti. Senza autopsia del capo non si può escludere un'emorragia cerebrale. L'autopsia si farà ma soltanto in Tunisia, al rimpatrio della Salma 2 mesi più tardi. Lì il medico legale rileva 2 ematomi nello strato profondo del cuoio capelluto, ma precisa, non possono aver provocato il decesso. Se è appena drogato vuol dire fuori uso. Tu lo fai fare un viaggio di un'ora, dopo mi dici se hai sentito male nella strada. Se non l'hai ammazzato con le botte, l'hai ammazzato con la mancanza del soccorso. Decessi legati alla rivolta del Sant'Anna, solo uno non è stato indagato dalla procura di Modena, quello di Salvatore Cuono Piscitelli, 40 anni, detto Sasà, l'unico detenuto italiano ad aver perso la vita. Sasà l'ho conosciuto intorno al 2010, quando lavoravamo dentro il carcere di Bollate gestendo un teatro. Lui aveva un comico naturale e ci ha fatto morire da ridere, veramente era straordinario. Sasà ce lo racconta Michelina Capato, regista scomparsa di recente. È lei ad aver portato il teatro in carcere per 25 anni. Michelina ha lavorato a lungo con Sasà. Per lui il palcoscenico era il sogno di una vita diversa. Lui ogni tanto si permetteva di sognare per un attimo di poter avere una vita normale, ma poi ti diceva che no, non era per lui, perché era troppo difficile. Sasà è tra i primi ad essere trasferito. Parte per il carcere di Ascoli Piceno insieme ad altri 41 detenuti. Nel comunicare il trasferimento, la dirigente del DAP che ha autorizzato gli spostamenti, Silvia Della Branca, fa una raccomandazione. Si sensibilizzi il caposcorta a sottoporre i detenuti a un'adeguata vigilanza al fine di prevenire ed impedire tentativi di evasione. Stando alla ricostruzione dell'istituto Ascolano, Sasà arriva poco dopo la mezzanotte del 9 marzo. Alle 2:30 fa la visita medica di primo ingresso e alle 3 raggiunge la sua nuova cella. Alle 13:20 però non risponde agli stimoli del personale di polizia penitenziaria, almeno così riporta il carcere. Alle 15:15 un'ambulanza lo porta all'ospedale cittadino, alle 17:25 il medico del pronto soccorso constata il decesso. Sasà è morto per verosimile intossicazione da farmaci. Ma il carcere di Ascoli non è il solo ad aver ricostruito le ultime ore di Sasà. L'hanno fatto anche 5 detenuti che erano con lui durante il trasferimento e dopo ad Ascoli. Il detenuto Piscitelli Salvatore, già brutalmente picchiato presso la casa circondariale di Modena e durante la traduzione, arrivò ad Ascoli in evidente stato di alterazione da farmaci, tanto da non riuscire a camminare e dover essere sorretto da altri detenuti. Tutti ci chiedemmo come mai il dirigente sanitario e il medico che ci ha visitato all'ingresso non avesse disposto l'immediato ricovero in ospedale. Le dichiarazioni sono parte di un esposto presentato dai 5 alla procura di Ancona. I detenuti denunciano di aver subito pestaggi brutali a Modena durante il viaggio e ad Ascoli, ma è la morte di Sasà ad averli spinti a denunciare. Tutti facemmo presente al commissario in sezione e agli agenti che il ragazzo non stava bene e che necessitava di cure immediate. Non vi fu risposta alcuna. Piscitelli emetteva dei versi lancinanti, ma nulla fu fatto. Qualcuno sentì un agente dire: fatelo morire. Dopo vari solleciti a vuoto, così scrivono i 5, alle 10:20 i detenuti avvisano gli agenti che Piscitelli è nel letto, freddo. Accorre un'infermiera, ma un commissario la ferma. Sasà è morto, gli viene steso un lenzuolo sul corpo. I 5 quindi dichiarano che Sasà è morto in carcere, mentre la ricostruzione fatta dall'istituto Ascolano sostiene sia morto in pronto soccorso. Difficile capire cosa sia capitato a Sasà. Il suo corpo potrebbe fornire informazioni preziose, ma non c'è più. È stato cremato perché sospetto Covid-19. La procura di Ascoli, che indaga sul caso, non ha ancora chiuso le indagini. Sono stati fatti degli ulteriori approfondimenti sui reperti biologici di Sasà ed una rivalutazione complessiva di tutti gli esami, compresi quelli tossicologici. E la cosa che mi rattrista di più è che lui a me ha detto varie volte che temeva di morire esattamente così come è morto. Cioè da solo, in una galera e con la violenza. Forse veramente per lui non c'era alternativa. E questo mi dà senso proprio di come il carcere sia il luogo del vuoto a perdere. Quindi i morti durante i trasferimenti. Abbiamo chiesto delle interviste al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Provveditorato Regionale del DAP. Ci sono state negate perché sono ancora in corso inchieste giudiziarie e accertamenti ispettivi interni. Durante un convegno a Bologna avevamo cercato di avvicinare la provveditrice regionale del DAP, Gloria Manzelli, anche per chiederle delle denunce di percosse presentate dai detenuti. Non ci può rispondere a qualcosa? Per poterla intervistare ti dobbiamo chiedere. Dovete chiedere al Dipartimento, ma non preannuncio che E perché non si può fare? Normalmente se è una pubblica funzionaria mi potrebbe dare l'intervista se io la chiedo. Io questo lei no, non devo darle l'intervista, signora, però lei faccia il suo mestiere, io faccio, non ci mancherebbe. Allora sì, avete sentito, sono fatti miei, ha detto questa alta dirigente del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, e queste sono le uscite che si permettono questi potenti, in mano alle quali sono, diciamo, le vite dei più disperati, del proletariato, di quelli che procurano praticamente tutta la merce che abbiamo a casa, a partire da, insomma, dalla verdura, dalla frutta. Sono loro che le raccolgono, che vivono in condizioni inimmaginabili, pagati a nulla, devono mantenere parenti nei loro paesi e poi appunto essere trattati a pesce in faccia, questi parenti, anche quando chiedono ragioni di un loro parente ammazzato. Avevo preannunciato che vi avrei letto qualche stralcio da un articolo che è uscito su Carmilla Online di Alex Sick, strage di Modena noi non archiviamo, ma nel mentre ho cambiato idea perché volevo parlarvi di un'altra cosa. In ogni caso vi ho ripetuto, insomma, il riferimento che potete andare a vedere, e tratta sostanzialmente le stesse cose che abbiamo ascoltato, le articola meglio, e inoltre potete trovare tutti gli aggiornamenti sulla lotta per la memoria rispetto alle stragi del 2020 andando sulla pagina Facebook Consiglio Popolare Modena, dove appunto trovate anche le iniziative varie che sono state fatte lo scorso fine settimana, e insomma tenervi aggiornati. Invece cambiamo, adesso voltiamo pagina e torniamo a, vorrei, insomma, a me piacerebbe tornare a parlarvi del continuare, insomma, il discorso che si faceva qualche puntata fa rispetto al discorso della militanza e di come era stato affrontato da questa corrente, diciamo, minoritaria, assolutamente minoritaria ai tempi, e si sta parlando comunque di 50 anni fa. Prima di andarvi a leggere, diciamo, continuarvi a leggere altri testi di questi LUD, Consigli Proletari, si chiamava il gruppo, e volevo riepilogare un po', fare una cornice rispetto a tutti questi discorsi che stiamo facendo da un po' di puntate, e un contesto storico che va fatto, insomma, è che a partire dal decennio degli anni 60 del Novecento in Italia entra in crisi definitiva il modello di intervento politico e sindacale fondato sulla rappresentanza, ovvero, insomma, i lavoratori che, insomma, portano le loro istanze ai rappresentanti delle organizzazioni riconosciute dalle autorità, dalle istituzioni statali. E una data simbolo di questa frattura è sicuramente il moto di protesta del luglio 60. Il luglio 60 succede che viene annunciato provocatoriamente dall'allora testimone, diciamo, che raccoglieva, insomma, tutte le varie maleodoranti esponenti del fascismo di quella volta, si chiamava MSI. L'MSI avrebbe dovuto tenere il congresso nella città di Genova, che tra l'altro era una di quelle che erano state liberate in maniera, diciamo, protagonista dai partigiani e senza, appunto, senza il supporto delle truppe alleate militari. E questo perché quell'epoca, appunto, c'era un governo centrale democristiano ma con l'appoggio esterno, appunto, di questo MSI, e appunto si scatenano dei moti, delle violente proteste, con la polizia che reagisce con dei morti. Comunque la piazza di Genova viene conquistata da questa nuova figura, che sono i cosiddetti ragazzi con le magliette a strisce, che erano i primi contestatori dalla fine della resistenza. Passano ancora un paio d'anni a Torino, questa volta diciamo che si erano andati coagulando in una rivista che si chiamava Quaderni Rossi, che appunto si erano andati coagulando delle esperienze portate sia da alcuni intellettuali che comunque lavoravano dentro le organizzazioni sindacali o di partito dei partiti della sinistra di allora, che comunque composizione dissidenti, diciamo, rispetto alle linee anche di più sinistroidi di questi partiti, e in particolare il Partito Socialista Italiano, e insieme ad altri invece semplici, diciamo, lavoratori e militanti sindacali, hanno dato vita, appunto, a questa rivista, e questa, che però è più di una rivista, anche un insieme di esperienze, Quaderni Rossi, e che si trovano a essere testimoni di un altro moto di protesta, questa volta appunto Torino nel giugno 62, con la rivolta di Piazza Statuto, dove questa volta scoppia la rabbia dei giovani, diciamo, per lo più operai, ma anche così arrabbiati, senza, voglio dire, sfaccendati, in seguito appunto al fatto che la UIL, cioè la Fiat, aveva cercato di concludere un accordo separato sul rinnovo contrattuale con la UIL, col sindacato UIL dei metalmeccanici, e come sempre, appunto, i rinnovi contrattuali, come ancora adesso ma anche allora, seguivano delle scadenze abbastanza cadenzate, abbastanza, diciamo, degli ingranaggi, possiamo dire, e gli scioperi e le agitazioni erano sempre dipendenti, insomma, funzione di queste tempistiche, diciamo, decise ai piani alti. Invece, appunto, stavolta Piazza Statuto, giugno-luglio 62, ancora una, emergono questa figura, insomma, dell'operaio massa, di questi sottoproletari, che però erano stati reclutati nella fabbrica che passava, insomma, passava una soglia di modernizzazione ulteriore rispetto agli anni 50, e portava, insomma, questi sottoproletari a essere impiegati per svolgere mansioni sempre più ripetitive, sempre più alienanti, sempre più scollegate dal processo produttivo, insomma, dal processo complessivo della produzione. Ancora due anni, nel 64, andiamo veloci, poi darò magari dei riferimenti più approfonditi. Nel 64 si ha una scissione, diciamo, all'interno di questa area che si andava, diciamo, identificando come quell'area operaista. Alcuni decidono di aderire al PC per provare a influire sulla direzione, altri appunto, che sono tra i quali alcuni di questi andranno a far parte di LUD, dell'esperienza di LUD, si distanziano si distanziano definitivamente dall'impostazione leninista e insomma promuovono un tipo di intervento per cui si vanno non a dirigere ma a rinforzare o a mobilitarsi direttamente nelle singole lotte, soprattutto mettendo in primo piano l'autonomia di una lotta rispetto appunto a quello che dicevo prima, ai funzionari e l'auto-organizzazione di questi soggetti, ecco. Ecco, allora arriviamo negli anni poco prima del 68 con un'idea di militanza, la militanza che non è più appunto un lavoro straordinario che si va a svolgere dopo quello fatto in fabbrica o in ufficio, ma vuole essere sempre più un modo di vivere, no? Una modalità di esistenza, diciamo, emancipata dai ruoli, soprattutto qui lo sottopone insomma il contesto, il processo produttivo. Sì, forse è giusto aggiungere questo punto, insomma, che mentre appunto simultaneamente scoppia una protesta anche giovanile, oltre che studentesca, nel corso del 68 e del 69, questi esponenti di cui voglio parlare, di cui stiamo parlando insomma in queste puntate, cercano di mettere in evidenza come il fatto che emergano dei leader nel movimento studentesco è di per sé già fallimentare, perché la critica radicale, gli esponenti della critica radicale italiana, la politicizzazione di questi leader è l'origine di un nuovo movimento separato dal progetto proletario, nel senso che il progetto proletario di per sé stesso coincideva con questo, cioè secondo la critica radicale era in sé un modo di vivere, insomma un modo di lotta, di protesta, dove tutto appunto era tessuto insieme, mentre invece nel movimento studentesco c'era una volontà di interrogarsi sul proprio ruolo politico, sulla propria presa di coscienza come soggettività autonoma, tranne che però non ci si liberava dal proprio ruolo sociale che era del tutto interno, del tutto funzionale all'inserimento nel sistema produttivo neocapitalista della svolta insomma al consumismo, la svolta definitiva dell'Italia alla modernità, ecco, capitalista. E io direi, ecco, i riferimenti essenziali secondo me su questa questione li trovate nel saggio di Mario Lippolis, che vi ho già citato in precedenza, appunto in introduzione alla critica radicale in Italia, LUD, per la Nautilus del 2018. E poi sicuramente un volume di Nanni Balestrini e Primo Moroni intitolato L'Orda d'Oro, è importante per avere un quadro di questa storia. E poi era uscito tanti anni fa, insomma non credo che sia stato, non ho controllato se è stato rieditato, comunque un libro di Dario Lanzardo specifico sulla rivolta di Piazza Statuto, si intitola La rivolta di Piazza Statuto. E infine c'è anche un qualcosa, lo si può trovare anche in un volume a cura di Cesare Bermani, che era stato curato una decina di anni fa, intitolato La rivista Primo Maggio 1973-1989. Io proverei a mandare il brano, quello sulla Fiat, se intanto adesso con calma lo puntiamo, e poi vado a leggervi tranquillamente quello che riesco, insomma, stasera, dei testi che vi dicevo. Padrone questa volta, per te è andata proprio male, siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla mai. E signore padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia. E questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumino che se la squaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. E signor padrone questa volta, per te è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare soltanto a noi. E questa volta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100, se offri 100 1000 noi voglia. Il signore padrone non ci hai fregati con le invenzioni, coi sindacati, i tuoi progetti sono sfumati, perché si lotta contro di te e le qualifiche, le categorie, noi le vogliamo tutte abolite, le divisioni sono finite, alla catena siamo tutti uguali. Questa volta ormai a lottare sei imparato, a Mirafiori sei dimostrato, tutta l'Italia lo dimostrerà. E quando siamo scesi in piazza tu ti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male. Manganelli, scudi romani, però se visto anche tante mani che alzan pietrino cominciano a andare, tutta Torino proletaria alla violenza della questura risponde ora senza paura, la lotta dura si vuole far. E noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua a Mirafiori e con... Sì, c'è ancora un riferimento che si potrebbe fare, aggiungendolo a quelli che avevo fatto poco fa, che appunto, sentendo la canzone adesso, c'è il romanzo di Nanni Balestrini, Vogliamo Tutto, che tratta proprio della rivolta di Corso Traiano nel luglio 69 a Torino, davanti a Mirafiori, dove appunto hanno fatto scappare la celere e hanno preso possesso del viale per alcune ore. Gli operai, insieme con gli operai della Fiat, che erano in sciopero, più le famiglie di quelle, insomma, i parenti di questi operai che erano in lotta per la questione abitativa. Vado appunto, cerco di leggervi alcuni testi di questo appunto, La critica radicale in Italia, LUD, alcuni piccoli brani da L'utopia capitalista, che si trova nel numero 3 appunto dell'opuscolo numero 3 di LUD, Consigli proletari, stampato a Milano nel gennaio 1970. La dinamica recuperatrice del sistema contraddice la visione tradizionale marxista-leninista socialdemocratica, che ha il vizio di perpetuare nel tempo un'immagine statica della lotta di classe. Non solo la lotta di classe non è statica, non è frontale e non è elementare, ma trova al contrario la sua logica reale e la spiegazione della sua durata proprio nell'ininterrotta dinamica che ne è il motore trascinante, nella complicazione che tale dinamica ricrea e perpetua in seno alla lotta. Lontano dall'essere una frontiera, una statica linea di confine, la realtà concreta dello scontro di classe, ovvero il presente sempre scorrevole, in cui lo scontro si verifica, è al contrario il terreno dove la polarità storica delle classi antagoniste si compromette e si parcellizza in una infinità di momenti specifici, di scontri separati, la cui specificità e separatezza e la complicazione che esse comportano offuscano, mediano e in parte contraddicono la linearità storica e logica della lotta di classe generale. Il proletariato si realizza soltanto in quanto porta a effettuazione la società senza classi, conducendo fino all'ultimo la propria lotta di classe. La lotta per questa società non è solamente diretta contro il nemico esterno, la borghesia, ma è soprattutto la lotta del proletariato con se stesso, con gli effetti distruttivi e degradanti del sistema capitalistico sulla coscienza di classe. Se dal punto di vista del proletariato e il ritardo interposto tra il progetto reale rivoluzionario e l'autonegazione apparente del sistema, cioè la controrivoluzione reale, dal punto di vista del sistema è il dogma scientifico che assicura il costante allontanamento del desiderio dal suo appagamento, nella promessa che, colmando il ritardo, quando lo colma realmente, instaura sul mondo il dominio dell'apparenza, cioè finalmente per i dominanti la certezza certa del loro dominio ininterrotto, la certezza del potere sul mondo anche al prezzo di perdere tutto il mondo. La classe dominante, scusate, la partecipazione come disegno che coinvolge l'umanità nel fine di instaurare il regno dell'economia, la coinvolge nell'instaurare il regno indiscusso della coscienza della classe dominante. Realizza l'aspirazione storica della borghesia a mostrare soltanto la sua faccia di ceto operoso, riproduttore di universale classe lavoratrice, facendo coincidere il suo dominio totalizzante con la totalità, agendo ad un livello tale di generalizzazione da rovesciare contemporaneamente tutti i rapporti causa-effetto, teoria-prassi, proprio perché li affronta contemporaneamente, instaura il proprio potere come regno della natura, cioè il regno dell'irrazionale spacciato come regno del razionale. Il mondo della barbarie, con il controllo dell'economia sulle sue proprie leggi, disinnescando la permanente spinta inflazionistica, rovesciando lo sfruttamento in una gestione collettiva del plusvalore, togliendo al lavoro gli aspetti di attività brutale, sarebbe così per davvero il mondo migliore, cioè la barbarie, il migliore dei mondi possibili. Ah sì, no, scusa, sì, scusate, ecco, colpa mia. Scusatemi, ma sono testi molto densi e che io sto cercando di selezionare al massimo, insomma, per riuscire a leggerli stasera. Quindi continuiamo. Il tempo proletario non immediatamente convertibile in tempo di produzione perde la sua neutralizzazione nello stesso istante in cui la scienza di classe spoglia la livrea di servitrice del dominio per proclamare la propria neutralità interclassista sotto il segno egualitario del progresso tecnologico. C'è un mistero che la scienza non può svelare senza riprecipitare sulla terra, il mistero banale della totalità. La scienza spiega ogni cosa, purché resti appunto una cosa per volta come una palla per volta nel pallottoliere, un codice per volta nel computer, un linguaggio per volta nei congressi separati, una disciplina per volta nell'orario della scuola, una facoltà per volta nell'ateneo, una specializzazione per volta nella vita e la vita come specializzazione della separazione. Il trucco è fin troppo trasparente, il trucco dell'opacità organizzata. Per spacciare la realtà prodotta come natura naturale occorre che la realtà prodotta appaia come un territorio incognito. Solo così vivere può sembrare vero, può apparire come una peripezia. Nessuno detiene l'accumulazione definitiva dei significati spossessati, così come nessuno detiene l'accumulazione definitiva del plusvalore storto. Tutto viene redistribuito cambiando natura, tutto è fallout nell'universo snaturato della realtà prodotta. Ciò che era moneta diviene ideologia, ciò che si presentava come ideologia si monetizza, ma sempre per un istante soltanto, a una velocità di trasformazione tale che non consente a nulla mai di fissarsi se non nel meccanismo, nel funzionamento che lo trasforma. Ciò che viene nominato come ruolo è sempre e solo funzione, così come ciò che è nominato come materia è sempre solo ideologia. Il ruolo è la forma in cui la funzione appare, così come la mera realtà prodotta è la forma in cui l'ideologia determina le apparenze. L'obbedienza di ciascuno alla funzione cui è chiamato si chiama molto meglio coscienza del proprio ruolo, allo stesso modo che il fine dell'universo prodotto, la disumanizzazione integrale dei rapporti sociali, si chiama molto meglio un nuovo umanesimo. La coscienza del ruolo è quella che volentieri la rivoluzione senza rivoluzione, la sostanza del capitalismo progressista, sostituirebbe alla coscienza di classe, tanto volentieri che cambia i connotati della classe, la scioglie nella distribuzione dei ruoli. Concludiamo, insomma, l'ultimo brano che voglio leggervi. Tutte le menzogne sulla separazione tra teorie e prassi, tra classe e organizzazione, esplodono quando si tiene fermo il punto di vista della spontaneità. E infatti la spontaneità del proletariato ha sempre prima di tutto dovuto affrontare praticamente le sovrastrutture burocratiche pseudo-operaie con cui i politici lo imbrogliavano nel sistema della politica e rovesciarle per poter affrontare direttamente questo. La spontaneità come pratica della creatività è ciò che questa società non può recuperare. Solo così si spiegano le rimozioni che il sistema ha operato su tutte le esperienze di organizzazione diretta che il proletariato ha inventato, organizzazioni spontanee e della spontaneità, le libere comuni, i soviet, i consigli operai, che rivelano le sue rivoluzioni vere. Se la pratica delle verità parcellari della cultura separata ha dei limiti, ciò che ne rimane fuori è proprio la storia vera del proletariato e delle sue lotte di classe, e ciò tanto più ha ragione quanto più lo sviluppo del capitale tende a fare del proletariato il soggetto capace di andare al di là dei propri tentativi parziali, portare fino in fondo il proprio progetto storico, giusto perché la proletarizzazione imposta sul mondo intero spinge il proletariato intero a soddisfare il suo bisogno essenziale di andare al di là di se stesso. Bene, siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane. Vi ricordo che stiamo trasmettendo da Udine e prima di salutarci definitivamente vi ricordo adesso in sottofondo stiamo ascoltando i Kalashnikov dal loro album L'algebra morente del cielo, che è già uscita già 7 anni fa, sembra l'altro ieri, datata 2015. Poi avevamo anche ascoltato una band del circuito Straight Edge, gli Hardway, band italiana, e poi in un precedente intervento sempre sottofondo avevamo ascoltato i Flux of Pink Indians, band che sarebbe da parlarci sopra, anche perché questo album che avevamo messo in sottofondo è proprio uscito 40 anni fa, di una nota band inglese, appunto Flux of Pink Indians, del movimento punk anarchico del periodo. Inoltre, prima di chiudere del tutto, vi ricordo i nostri contatti. E inoltre ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, e i contatti, se volete scriverci tramite posta elettronica, è questa mail liberetutti@autistiche.org. ripeto, liberetutti@autistiche.org. se volete invece scriverci sotto forma cartacea, potete farlo intestando il vostro invio, qualsiasi cosa, insomma, lettera o qualsiasi eccetera eccetera, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste 34121. Ricordo anche questo nuovamente: Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste 34121. E inoltre, se volete riascoltare questa trasmissione odierna più anche tutte quelle delle scorse settimane, potete andare nel blog che si chiama zardismagneticsradio.noblogs.org. ripeto, zardismagneticsradio.noblogs.org. bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì. Abbiamo un po' sforato, vi lascio con questi brani, con questo ultimo brano dei Kalashnikov. Quindi l'appuntamento al prossimo giovedì, sempre dalle ore 20 alle ore 21.30 su Radio Onde Furlane, qui da Udine. E ciao a tutti.